Summertime di Elisabetta Fiorito. Noi, oggi a tutti, vogliamo render nota la nostra lungamente ponderata decisione. La mappa, qui. Buon pomeriggio, apriamo con un grande spettacolo nell'estate teatrale veronese al Teatro Romano proprio di Verona, un Re Lear interpretato da uno dei grandi attori italiani, Michele Placido. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, che cosa vuol dire cimentarsi in questo personaggio molto complesso, un po' alla fine della vita, un personaggio cieco prima solo metaforicamente e poi anche fisicamente? Beh, è un grande personaggio, ha un grande impegno mentale e fisico, ecco. Penso che è stato, come scrittura, uno dei più grandi testi mai scritti da mente umana, per cui per me sarà una grande sfida sia sul piano fisico che sul piano mentale, ripeto, però ci siamo preparati bene per questo debutto in questo prestigioso festival. Quali sono le novità di questo allestimento? Un allestimento molto contemporaneo, come faccio spesso con i miei film, ma anche appunto col teatro, vuol dire Shakespeare oggi rivolto ai giovani, rivolto soprattutto a quello che è la storia dell'uomo, cioè un testo che parla di potere, parla di rapporto potere e società, ma anche di famiglia. Re Lear è il padre di tre figlie, una delle tre figlie si ribellerà al padre, da lì inizia la decadenza di questo monarca, che interpreto ovviamente io, per ricordarlo, e che lo porterà addirittura alla follia, ma anche alla scoperta straordinaria che gli uomini hanno dei bisogni naturali, hanno bisogno di bisogni immediati, e che soltanto quando un uomo potente arriva a riconoscere l'uomo come se stesso, allora, solo allora, ecco che forse il cielo avrà ancora misericordia di chi ha bisogno, dei poveri. È chiaro, questo vuol dire la metafora su come i politici di oggi non riescono a riconoscere i bisogni della gente qualsiasi. Anche questo perché Re Lear fa un errore all'inizio, che è quello di dividere il regno pensando di mantenere il potere, no? Quindi esatto. È un politico molto maldestro, ricorda un po' i politici italiani in cui tante cose. C'è questa, sì, hai perfettamente ragione, da questo punto di vista è molto contemporaneo come politico, ecco, però poi quello che è il dramma interiore di Lear, no? Quello di non saper vedere dove porta il nuovo mondo, quindi è molto contemporaneo. Noi riscopriamo sempre Shakespeare in ogni generazione per riscoprire che è eterno, proprio perché ogni volta ci dà qualche chicca sulla realtà che stiamo vivendo. Sì, ci parla di noi, ecco perché i più grandi saggisti e critici dicono appunto che Shakespeare lo chiamano Shakespeare nostro contemporaneo, perché ogni volta nei suoi testi, da Giulietta e Romeo a Hamlet, Otello, appunto Re Lear, parla della società contemporanea. Ecco, un Re Lear che però, parliamo di un gossip, noi abbiamo visto un'ansa che ci dice che questo Re Lear non è tanto vecchio da non sposarsi più, Michele Placido, abbiamo saputo che si sposerà presto. Sì, è il 14 adesso agosto. E quindi allora facciamo intanto gli auguri a questo Re Lear sposo, quindi nella vita reale poi alla fine c'è un lieto fine, mentre come sappiamo nella tragedia shakespeariana no. Tornando al testo, qual è il momento che ha sentito, cioè in cui Re Lear... Sì. Beh, ce ne sono tanti. La grandezza di questo testo è proprio la difficoltà, nello stesso tempo, è proprio perché gli appuntamenti che ha Re Lear sono strepitosi, dalla frattura che si crea all'interno della famiglia, alla sua decadenza mentale, al dolore atroce che gli danno le figlie, perché lui ha donato tutto a loro, ma le due figlie, Goneril e Regan, addirittura lo metteranno fuori dal castello ad affrontare una tempesta che sarebbe la morte per qualsiasi essere umano. Lui riesce a attraversarla, e quel momento lì dell'attraversamento della tempesta fisica, ma anche e soprattutto la tempesta mentale, è uno dei momenti più alti della creazione proprio della scrittura e dell'arte. Come dice Jan Koth, grande saggista polacco, dice che appunto La tempesta è paragonabile alla Quinta di Beethoven o al Paradiso di Dante Alighieri. Sono momenti straordinari in cui l'uomo è da solo col mistero di se stesso, col mistero di chi è appunto e dove andrà e perché siamo qua, che cosa siamo, cosa rappresentiamo nell'universo, nel grande universo, noi piccole creature. Ecco, un padre come lei, il padre di Violante Placido, come si rapporta con un testo che parla appunto di paternità? Ma io mi ritrovo molto in questo personaggio, perché questo personaggio ha tutte le potenzialità, no? Patriarcali dell'uomo che ama i propri figli, li assiste, li cura, però è anche incapace di vedere i veri bisogni che possono avere i propri figli e che molte volte porta questa incapacità ad avere delle cecità e a procurare anche dei danni però ai figli. Vabbè, si sa che il mestiere di genitore è difficile, lo è stato anche per Lira, ancora di più lo è stato. Ecco, allora insomma un ruolo molto importante, poi soprattutto ricordiamo che Lear non vuole poi vedere la natura cattiva delle altre due figlie, no? Perché Cordelia è quella che si ribella ma poi alla fine è quella buona, mentre non riesce a capire che le altre sono un po' sono già delle anime perse. Allora ringraziamo Michele Placido, che si trova a fare il padre anche sul palcoscenico oltre che nella vita, e grazie Chiara delle belle cose che dici. che si trova a fare un Re Lear e che fra poco, ricordiamolo, un po' di gossip non fa mai male. Sono felice, sarà una grande giornata di festa, ma non solo per me e Federica, ma per tutte le due famiglie, per i miei amici, insomma, sono tutti entusiasti, speriamo bene, che porti ancora bene. Sono 10 anni che stiamo assieme, stiamo bene e che Dio ci porti ancora meglio. Allora, ecco, a che punto convolerà a nozze in questo caldo agosto, e allora tanti auguri anche per, soprattutto invece un in bocca al lupo per questa sera, ricordiamo Re Lear in scena al Teatro Romano di Verona in Prima Nazionale, interprete Michele Placido. Ciao. Grazie. E noi andiamo a Capalbio, sì, perché da questa sera fino al 12 agosto, nel cuore del borgo medievale, in Piazza Magenta, il piacere di leggere in piazza in rete, ovvero si apre uno degli eventi, possiamo dire, intellettuali più attesi dell'estate italiana, Capalbio Libri. Allora diamo il benvenuto ad Andrea Zagami, il direttore artistico, buon pomeriggio, e vorremmo chiederle subito quali sono le novità, quali sono gli incontri di quest'anno, si parla di politica non solo, ma insomma si parla della realtà italiana. Sì, si parla della realtà italiana, cominciamo con una giornata stasera appunto scoppiettante, alle 19 Mirta Merlino con Massimo Mucchetti, Antonio Mastrapasqua e Chicco Testa sul suo libro L'aria che tira, e alle 21.30 un faccia a faccia Matteo Renzi con Denis Pardo, una giornalista dell'Espresso. Il nostro format è fedele a questa formula di contaminazione, per cui saggi, musica, letture di brani di attori tutti molto giovani, dei musicisti bravissimi, jazz moderno, d'avanguardia e tradizionale, scelti da Massimo Nunzi. Questa è la nostra formula, saggi ma anche romanzi. Ecco, ovviamente. Che cosa ci propone Capalbio Libri, che ricordiamo in provincia di Grosseto, si va in Toscana, per chi volesse raggiungere questa bellissima località? Allora, la proposta qui, gli ingredienti sono ambiente ben tutelato, cibo buono e un'offerta culturale, devo dire, veramente ricca. A parte Capalbio Libri, nelle stesse sere c'è un'offerta di cinema all'aperto, cinema chiuso, spettacoli di vario tipo. Il nostro programma, dicevo appunto, insieme alla parte saggistica, sono dei romanzi molto interessanti. Per esempio c'è un libro di Giuseppe Di Piazza, I quattro canti di Palermo, edito da Bompiani, quattro storie straordinarie ambientate a Palermo, condotto da Manfellotto con letture di Lucrezia Lante della Rovere. Anche lì la musica fa da padrone, c'è Giovanni Ceccarelli, un talento italiano straordinario. Ma abbiamo anche Pietro Grasso, il procuratore della Repubblica, capo dell'antimafia, con un faccia a faccia affidato a Umberto Brindani, il direttore di Oggi. quindi la nostra caratteristica è questa di mettere insieme più elementi, il pubblico risponde bene, seguiamo i consigli che ci danno ogni anno attraverso un questionario e continuiamo a fare sperimentazione sulla promozione dei libri e della lettura. Quindi anche nella scelta dei romanzi, però voi siete sempre concentrati sulla realtà italiana, su quello che succede a livello che possa avere anche un riscontro politico ed economico. Sì, per esempio il libro di Paola Concia che presentiamo il 3 agosto è La vera storia dei miei capelli bianchi. La Concia ci aiuta a capire come si vive l'omosessualità prima e dopo averla dichiarata. Quindi molto interessante, in questo caso è Andrea Purgatori che conduce la discussione e partecipa Irene Tinagli, un'economista italiana molto brava. Insomma, tanti sì. Gli appuntamenti da non perdere, si inizia sempre alle 19 e poi c'è il secondo appuntamento alle 21.30? In alcuni casi c'è un secondo appuntamento alle 21.30, appunto c'è questo stasera con Matteo Renzi e l'ultima sera una sorpresa, la piazza dal piacere di leggere si trasforma nel piacere di ballare. Ah ecco, quindi ci sarà uno spettacolo di danza, non ci vuol dire più di più? No, diciamo che cerchiamo di trasformare con discrezione questa piazza straordinaria in un posto dove si fa festa. Allora, il piacere di leggere in piazza in rete, lo ricordiamo, il comune di Capalbio in provincia di Grosseto, dal 1 al 12 agosto abbiamo sentito Andrea Zagami, il direttore artistico di Capalbio Libri, il piacere di leggere. Proprio questa sera, come ci stava già accennando Zagami, c'è la presentazione del libro di Mirta Merlino, L'aria che tira. Allora, autrice di questo libro, ovviamente la domanda è scontata. Mirta, che aria tira in Italia? Non molto buona, eh? No, purtroppo no, guarda, tira un'aria difficile, tirato tutto l'inverno, tra l'altro. Io ho cominciato questo programma l'anno scorso, ho cominciato il mio programma televisivo, che poi prende origine il libro, l'anno scorso al mese di settembre, devo dire è stato un crescendo, siamo arrivati a novembre con lo spread a 500, il cambio di governo. Ecco, ricordiamo, tu vai in onda sulla 7, no? Arrivo sulla 7 tutte le mattine dalle 11 a mezzogiorno e 20, quindi quest'anno davvero è stato un anno in cui abbiamo un po' fatto il meteo dell'economia, cioè tenuto una sorta di il polso di quello che succedeva, però l'abbiamo fatto partendo dalle persone vere, cioè l'idea è stata quella di raccontare l'economia, la crisi economica, le difficoltà del paese attraverso le storie degli italiani. Ed è il motivo per cui poi è nato il libro, perché mi sono sentita davvero depositaria di tante storie drammatiche, difficili, di sofferenza e anche di ingiustizia in alcuni casi. E mi è sembrato che la televisione, come ben sapete, alla fine tutto tende un po' a evaporare, no? Verba volant, quindi ho sentito il bisogno davvero di mettere poi nero su bianco queste storie, perché poi ogni storia è il racconto di un pezzo d'Italia. Io abbiamo parlato degli esodati, per esempio. I famosi esodati, no? Detti così sembra una cosa... Una brutta parola. No, sì, comunque un'entità assolutamente irreale, poi però sono persone reali che non hanno più il lavoro, non hanno ancora la pensione, quindi che vivono una situazione molto difficile. Esatto, brava, esattamente questo è il punto, una situazione di grande ingiustizia. Io ne ho avuti tanti in studio e ne racconto tanti nel libro. Beh, parliamo di persone che di solito sono tra i 55 e i 60 anni, hanno fatto una vita di lavoro, qualche volta anche di lavoro importante, soddisfacente, con responsabilità, e che all'improvviso, dall'essere, come dire, un po' il pilastro della famiglia, si trovano totalmente persi, perché hanno cominciato ad attraversare questo ponte che doveva portarli dal lavoro alla pensione, e questo ponte è crollato sotto i piedi, quindi è gente disperata. E tra l'altro, come ben sappiamo, ahimè, anche dagli ultimi dati, la disoccupazione in questo paese aumenta, i giovani non hanno lavoro. Qui sono i padri di famiglia che sono quelli che tengono sulle spalle i giovani figli precari, i genitori anziani. Cioè, minare la loro sicurezza vuol dire di fatto minare poi la sicurezza di milioni di famiglie, perché le cifre, lo sapete bene, sono girate tante cifre. Noi dall'inizio che diciamo che sono 300.000, devo dirti, con dei conti fatti un po' a spanne da noi, pian piano ci stiamo arrivando al fatto che sono tanti, però dietro queste persone poi c'è una famiglia intera, ci sono i figli, le mogli, i genitori, quindi è davvero un colpo tremendo secondo me, proprio per la sicurezza degli italiani, che invece la cosa della pensione era un po' in un paese così difficile in cui tutto è faticoso da raggiungere, per noi la pensione è sempre stata un po' invece l'approdo sicuro. Ora, io penso che la riforma delle pensioni andava fatta, perché è un paese che invecchia, l'età media avanza e quindi naturalmente l'idea che si vada in pensione a 55 anni è un'idea che non c'è più. Però è anche vero che quando c'è una persona che ha fatto un accordo con un'azienda e gli ha detto benissimo, tra 2 anni vai in pensione, ti do lo scivolo, ti do dei soldi per andare avanti questi 2 anni e poi arriverai alla pensione e questa cosa non arriva più, la si lascia senza lavoro, senza pensione, veramente è una cosa di un'ingiustizia spaventosa che è successa nel nostro paese. Allora, ringraziamo Mirta Merlino, abbiamo sentito che l'area che tira in Italia non è delle migliori, ma lo sapevamo, speriamo che questo momento brutto per tutta l'economia passi in fretta, noi questa è la nostra speranza, vediamo che cosa succederà a livello europeo, noi però per sapere che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo nel nostro paese, ricordiamo a Capalbio Libri, questa sera alle 19, Mirta Merlino, autrice dell'area che tira. Grazie. Grazie a voi, a presto. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene. E adesso noi andiamo all'Auditorium Parco della Musica, dove questa sera, mercoledì 1 agosto, chiude la rassegna Luglio Suona Bene, Noemi con il suo tour Rosso Noemi. Allora Noemi, ti innervosisce cantare a Roma, all'Auditorium, dove vanno i più grandi compositori di musica classica, i pianisti, eh? E tu che sei invece una pop star, come vedi questo pubblico dell'Auditorium? Roba, pop star esagerato magari ma il palco dell'Auditorium, soprattutto quello della Cavea, insomma è un palco fantastico che è stato calcato da grandissimi personaggi. Io devo dire la verità, sono un po' spaventata ma sono profondamente onorata di potermi esibire questa sera lì e spero che piaccia lo spettacolo. Certo, non sarà proprio uno spettacolo di musica classica perché io porterò me stessa, quindi il mio sound e la mia voce, la scelta delle canzoni, però credo che insomma prenderò spunto anche dalla grande tradizione cantautorale italiana. Spero che piaccia lo spettacolo, ecco. Ecco, Rosso Noemi Tour, tu hai praticamente il tastierista, il batterista, il basso, la chitarra blues, la chitarra elettrica che ti accompagnano, tutti uomini, sì. Te sei l'unica donna, tu sei l'unica donna. Che tipo di musica proponete? Cioè il tuo repertorio però magari poi si tinge un pochino di altre sfumature? Ma all'interno del concerto sì, saranno 20 canzoni tratte da, io sono uscita con 2 album fino adesso, il primo che si chiamava Sulla mia pelle, questo qui che è appunto Rosso Noemi, che dà pure il nome al tour. Beh, io canterò le canzoni che sono più conosciute, poi alcuni estratti dai miei album che hanno, specialmente l'ultimo, insomma delle sonorità molto internazionali, vicino al blues, perché io sono una grande fan del blues, quindi di B.B. King, di tutta quella tradizione là. Poi all'interno del concerto ho inserito anche 3 cover che in qualche modo descrivono quelle che sono le mie tradizioni e che cosa vorrei fare, no? Avvicinandomi sempre di più, come si fa nella vita, no? a chi si è, a quello che non vorrebbe essere musicalmente, eccetera, eccetera. Quindi ho scelto un grandissimo pezzo di Battiato che è La Cura. Poi ho scelto un pezzo dei 99 Posse, che abbiamo rivisitato in chiave dub, Jungle, che è quello che è, un pezzo che ha scritto Meg, anche per far capire che insomma io mi sento contemporanea e quindi gli ascolti, diciamo, poi questo è un pezzo del 97, quindi in realtà fa parte già della storia della musica italiana. Poi hai parlato di 3 cover, la terza? E la terza è Valerie, che è un pezzo degli Zootons, che cantava anche Amy Winehouse, e su cui io la canto, poi suono anche la chitarra elettrica, stasera suonerò anche il pianoforte insieme alla mia band, quindi oltre a sentire la mia voce, mi sentirete anche suonare. Io sono molto contenta anche perché è la prima volta che lo faccio, è il primo tour in cui mi esibisco suonando anche dal vivo e devo dire che è una grande prova perché sono abituata a suonare nelle 4 mura della mia camera, quindi sono molto emozionata di questa. È la seconda volta perché già nell'invernale, nella data primaverile nella Santa Cecilia all'Auditorium l'ho già fatto, ma insomma è sempre come se fosse la prima volta all'auditorium. Senti, ma non ci vuoi accennare a questa Valerie o a un'altra di queste cover, così, tanto per, con questa tua voce, no, particolare, con questo timbro anche un po' basso, tu hai detto mi piace, un po', diciamo, cavernicolo. Dai, mi piace, hai detto B.B. King, la musica nera, eccetera. Beh, la voce c'è, no, come tonalità. Allora, siamo là, insomma, poi hai altre robe. Hai parlato di Amy Winehouse, che era un po' la, diciamo così, conosciuta come la bianca che cantava come una nera, no? Cioè, quindi... Allora, ma ecco, un accennino magari anche di Vuoto a perdere, o L'amore si odia, ma anche di questa Valerie. Your L'amore choice. Si odia, facciamo un pezzo mio, ecco. Your choice. Va bene, oddio, che imbarazzo, ok. Ed ogni petalo, sai, si finge di essere una rosa. Per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa. Ok. Insomma, comunque è sempre molto difficile, noi perché ci piace scherzare a Summertime, no? No, allora, e soprattutto ci piace far vedere che le nostre cantanti hanno la voce, capito? Assolutamente. Allora, anzi. Quindi senti, che cosa comporta avere una voce di una tonalità particolare come la tua? Oddio, io devo dire la verità, quando mi è successo, perché succede che cambi la voce nella vita di una persona, io l'ho presa molto male, perché in realtà quando avevo 16 anni cantavo Aretha Franklin in tonalità originale, e devo dire che quando ho cambiato voce così bassa, così, io sono un contralto, quindi proprio da un'altra parte, ma l'ho presa un po' male, non ho cantato per 2 anni, però invece ho capito che queste tonalità diverse erano una peculiarità, mi distinguevano da tutte le altre cantanti che spettavano, tra questi Fa diesis, Mi, e devo dire che alla fine è una carta vincente, perché nella musica, come nella vita, non si può fare altro che essere se stessi, e quindi forse in questo mi ha anche facilitato il fatto di avere una voce diversa da tutte le voci che ci sono, e spero che mi porti fortuna, ecco, in qualche modo. Pensa, no? Magari nella musica lirica saresti proprio contesa, perché è molto rara come tonalità. Beh, sì, sarei. Allora, ricordiamo che questa sera alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma si esibisce Noemi, Rosso Noemi Tour. Abbiamo sentito molte novità, anche delle cover, ma poi abbiamo sentito la sua splendida voce in uno dei suoi classici. Grazie, Noemi. Grazie a te, buona giornata a tutti. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. E noi andiamo a Milano, al Teatro Romano di Villa Clerici, dove questa sera c'è uno spettacolo tutto al femminile, I monologhi della pancia e La Momola Menardi, interpretati da Federica Brivio e da Alessandra Faiella. Alessandra, allora, di che cosa parla questo spettacolo? Il monologo è un monologo con i testi di Franca Valeri, è una sintesi tra diversi personaggi di Franca Valeri che Milvia Marigliano, la regista, ed io abbiamo unificato in un unico personaggio, la Momola Menardi. Quindi il pubblico riconoscerà delle battute, delle espressioni della grandissima Franca Valeri, però la versione scenica è molto diversa, perché io sarò un unico personaggio in scena con questa enorme palla di Pilates, dove mi rotolerò, mi arrampicherò, mi aggrapperò a questa enorme palla, recitando appunto diversi sketch della Valeri, però come se appartenessero a un'unica persona, a un unico personaggio, appunto la Momola Menardi. Ecco, molto in un contesto, molto in sintesi, sì, molto in sintesi, un contesto anche un po' milanese, no? Anche se la Valeri, poi alla Valeri piaceva anche fare la signora romana. Ecco, esatto. Mi sembra che in questa tua messa in scena con questa palla di Pilates, eccetera, si voglia un pochino attualizzare il contesto di questi sketch, che sono magari eterni, ma esatto, anche la Valeri ormai, secondo me, è un grande classico del teatro contemporaneo, e come tutti i classici è ancora attuale, quindi in realtà non c'è stato un grandissimo bisogno di attualizzare testi che sono sempre freschi, sono sempre nuovi, però sicuramente questa idea della palla di Pilates, che è un'idea appunto della regista Marigliano, dà un sapore ancora più moderno, perché abbiamo voluto immaginarci una donna di oggi alle prese con tutte le contraddizioni che abbiamo noi donne di oggi, e quindi questa palla enorme di Pilates un po' le sintetizza e le rappresenta. Della anche perché serie... è una palla di Pilates, ma è anche una palla mondo, è una palla cosmo, è una palla umana, anche intesa come rottura, è un po' tutto, insomma, un po' tutto questo. Anche perché le donne di oggi devono fare Pilates, avere figli, essere bellissime, esatto. Andare al parrucchiere e lavorare pure, no? Esatto. Mandare avanti la famiglia. Allora, esatto. Qual è, infatti, è proprio questo, scusami, ma hai centrato proprio il discorso, cioè mettendo tante donne della Valeri in un'unica donna, noi abbiamo voluto proprio rappresentare questo, cioè una donna di oggi che è mamma, però lavora, però è stata lasciata dal marito, però cerca di recuperare, però si illude rispetto a un altro amore. Abbiamo voluto fare una sintesi perché proprio così, come dicevi tu, oggi noi dobbiamo fare 2000 cose, siamo una, nessuna e 100.000 proprio come personaggi della Valeri. Alessandra, per chiudere però vorrei che tu mi accennassi a un piccolo sketch, quello che ti piace di più di questo tuo spettacolo. Difficile dirlo, perché appunto non è fatto a sketch, ma è fatto a un unico monologo. Diciamo, forse il momento che preferisco è quando lei, cioè io, insomma lei, il personaggio, parla con il figlio. Il figlio che ha questa fidanzata, e io come mamma dico queste cose terribili alla fidanzata, ammantate però di bontà e di accettazione. Per della cui, serie? Caro, della serie, caro, tu sai che io non avrei mai voluto che tu sposassi una donna molto bella, e vista la ragazza sono certa di saperti avviato verso una vita serena. E così via, il suo leggero strabismo le conferisce una classe decisamente gradevole. Insomma, dice tutta una serie insomma, di cattiverie. Insomma, dice che praticamente è bruttissima. Dice che è orrenda, che si veste male, che mangia male, che è un peccato quel rumoraccio che fa con la bocca, e quindi la distrugge, però concludendo naturalmente, però Tato, l'importante è che la ragazza sia buona e che ti voglia bene, e poi anche se non te ne volesse c'è sempre la tua mamma che te ne vuole. Vai sereno, e quindi conclude così. Magari questo... qualche mamma potrebbe prendere spunto ed evitare certi discorsi. Sì. Allora ricordiamo, sì. Alessandra Faiella, in uno spettacolo con i testi, abbiamo sentito, di Franca Valeri, La Momola Menardi, in scena con una palla di Pilates al Teatro Romano di Villa Clerici questa sera, con i monologhi della pancia anche di con Federica Brivio. L'appuntamento quindi a Milano. Ciao! Ciao, grazie a voi, a presto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it e mando un saluto speciale da parte di tutta la redazione a Gloria Guerrera.